Radio 24 Reportage. I padroni di Ostia, di Giorgio Stamatopoulos. Durante i 24 mesi che siamo stati lì, come se ci fosse una tregua, abbiamo cercato di allontanare dalla macchina amministrativa le pressioni, le intimidazioni, però sul territorio la permanenza di certi gruppi criminali c'è sempre stata e non potevamo noi eliminarla. Nelle parole del prefetto antimafia Domenico Vulpiani, commissario del municipio di Ostia dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose nel 2015, c'è la fotografia di un fenomeno criminale che affonda le radici nel tempo e permea in modo quasi inestricabile un intero territorio, nonostante le diverse inchieste e condanne della magistratura. Non a caso il prefetto, lasciando il suo incarico alla vigilia del voto amministrativo, ha aggiunto che il commissariamento di Ostia dovrebbe durare altri 10 anni. Perché Ostia, popolosa periferia sul mare della capitale, una città nella città, è il regno di quel mondo di sotto, per dirla con il neofascista Carminati, dove la violenza, la minaccia, l'estorsione, la corruzione, i roghi sul lungomare per impadronirsi dei chioschi, il racket delle case popolari, il traffico e lo spaccio di droga sui 12 chilometri di spiaggia senza un accesso pubblico sono ormai da anni la regola, imposta da alcune famiglie criminali, i Fasciani, i Triassi, gli Spada, che si spartiscono e si contendono il territorio. Tutti fatti che sono finiti al centro di processi in cui il metodo e l'aggravante mafiosi hanno rappresentato uno snodo fondamentale, come spiega il procuratore aggiunto di Roma, Michele Prestipino. Da un punto di vista criminologico, noi a Ostia abbiamo una rappresentazione criminale che è molto, molto assimilabile a quella di alcuni paesi calabresi o siciliani, con una o due famiglie organizzate molto saldamente, che hanno a loro disposizione gruppi minori satelliti, con i quali sono federati, che li utilizzano e che hanno anche imparato del metodo mafioso, non soltanto l'esercizio della forza di intimidazione, ma anche la capacità di fare relazioni. E quindi a Ostia hanno avuto la capacità di entrare dentro al municipio, agli apparati amministrativi. Omicidi e gambizzazioni, regolamenti di conti scandiscono negli anni i passaggi di potere da una famiglia all'altra. In mezzo, alcune figure criminali rappresentano un filo rosso di continuità che risale fino alla vecchia stagione della banda della Magliana, come il boss Giovanni Galleoni, detto Baficchio, il suo socio Francesco Antonini, detto Sorca Nera, pronti a torturare e uccidere i nemici del clan a cui di volta in volta si legano. Pochi hanno il coraggio di raccontare quello che succede alle porte di Roma, come invece ha fatto con le sue inchieste la giornalista di Repubblica Federica Angeli, minacciata e sequestrata, oggi costretta a vivere sotto scorta dopo aver assistito a un agguato del clan Spada, che al microfono di Raffaella Calandra ricorda così. Era il 16 luglio del 2013, ero a casa perché io sono nata e cresciuta peraltro a Ostia e sento una ragazza gridare, dire di non sparare, poi sento subito due colpi di pistola. Immediatamente mi affaccio alla finestra e vedo due persone accasciate a terra, imbrattate di sangue, del Sodali del clan Triassi, che è uno dei tre clan su quel territorio, e due che erano gli Spada a scappare via. Erano affacciate tantissime altre persone, quindi siamo a Ostia, a 22 chilometri dal centro di Roma. Il boss di Spada alza gli occhi ai balconi e invita tutti quanti in malo modo a entrare dentro perché lo spettacolo era finito, tutti rientrano dentro e io rimango lì, unica testimone oculare. Adesso a fine novembre dovrò affrontare, dopo 4 anni, questo processo. Se tutti quanti gli abitanti almeno del mio quartiere fossero andati a testimoniare, a raccontare quello che io avevo visto, così come loro, probabilmente ora la mia vita non sarebbe così. Il 26 luglio del 2013 l'indagine Nuova Alba culmina con l'arresto di 51 persone, molte delle quali finite in manette per associazioni di stampo mafioso, e porta alla luce tutti i passaggi criminali nei vari affari delle organizzazioni. Accordi tra i capi per la spartizione del litorale, pianificazione di omicidi per il controllo del territorio. Il blitz colpisce l'intera famiglia Fasciani, a partire dal capo indiscusso Carmine, e quella dei Triassi, legati al clan mafioso dei Contrera Caruana, diretta espressione di Cosa Nostra sul litorale romano. Nel corso degli anni, organizzazioni criminali e mafiosi importanti, cioè quelle tradizionali, ovviamente in vario modo e in tempi diversi, hanno accumulato delle ricchezze straordinarie, delle ricchezze che noi non riusciamo neppure a immaginare per livello di quantità come dire, di qualità della composizione del portafoglio. Non potevano essere spese investite nei territori di origine di queste organizzazioni. E le ricchezze delle famiglie e delle elite mafiose di Cosa Nostra, queste ricchezze hanno camminato, come dire, hanno risalito il territorio italiano e non solo. Sono finite anche nelle mani di veri e propri gruppi, che si sono trasferiti dai luoghi di origine, hanno, come dire, messo radici, si sono stabilizzati fuori dai territori di origine. Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, la città di Roma. Ma è con l'inchiesta Mondo di Mezzo, che porta in carcere l'ex NAR Carminati, il RAS delle cooperative rosse Buzzi e decine di politici e imprenditori, che istituzioni e opinione pubblica cominciano a interrogarsi sul fattore mafia a Roma. Tra gli altri finisce in manette anche il dem Andrea Tassone, che guida il municipio di Ostia, e il presidente del PD Matteo Orfini annuncia il commissariamento e la riforma delle regole interne del partito anche sul litorale. Abbiamo costituito 15 circoli territoriali, uno per municipio, che saranno il luogo dove si svolge il tesseramento e dove si celebrano i congressi. Ci sono notevoli procedure di verifica dell'iscrizione del tesseramento di controllo anti, diciamo, o tessere false. Appena arriva il rapporto base procederemo alla chiusura dei circoli cattivi e pericolosi. Nel frattempo a Ostia il processo contro la famiglia Fasciani arriva a sentenza e nel 2015 i giudici infliggono oltre 200 anni di carcere a 14 imputati, accusati di aver fatto parte di un'organizzazione criminale di stampo mafioso. Il clan ne esce decimato a tutto vantaggio del clan rivale, quello degli Spada, che nonostante alcune condanne resta forte sul territorio. Il risultato è che questo pezzo dell'urbe cambia padrone, ma la morsa criminale rimane stretta. Paura e omertà fanno il resto, come sottolinea il prefetto Vulpiani al microfono di Raffaella Calandra, ricordando gli ultimi atti di intimidazione avvenuti alla vigilia del voto del 5 novembre. Segnale che è stato mandato anche nei giorni precedenti alle elezioni sono stati l'incendio di 30 cassonetti. Noi abbiamo cercato di tenere sempre Ostia pulita. La notte prima delle elezioni ci hanno bruciato un cassonetto davanti al municipio, nel centro di Ostia. Un segnale per dire adesso ci siamo noi, è un segnale ai politici. La politica, appunto, che fatica a riguadagnare la fiducia dei cittadini, lasciando uno spazio vuoto. Ad Ostia viene riempito dal movimento di estrema destra Casa Pound, che indirizza il malcontento popolare contro gli immigrati e sul territorio dà vita a una sorta di welfare alternativo a quello che le istituzioni non riescono a garantire. L'impegno civile del movimento ha però anche un altro volto. Sul successo al primo turno dei due leader locali incombe l'amicizia ingombrante con il pugile Roberto Spada, fratello di Carmine, detto Romoletto, condannato in primo grado a 10 anni per estorsione aggravata dal metodo mafioso e ritenuto dagli inquirenti al vertice dell'omonimo clan che oggi comanda a Ostia. Prima delle elezioni, sulla sua pagina Facebook, il fratello del boss scrive che gli unici sempre presenti sul territorio sono quelli di Casa Pound, un post che è una chiara indicazione di voto. Ma quando l'inviato della trasmissione Rai, Nemo, Daniele Piervincenzi, va a chiedergliene conto, viene brutalmente aggredito e picchiato. Un episodio che il giornalista in trasmissione commenta così. Io ero lì per fare domande anche molto banali, dico la verità, però domande di politica. E però per certe persone parlare di politica negli spazi che sono nostri, cioè sulla strada, delle piazze, è una provocazione. E quindi l'appello che dobbiamo fare è: cittadini, riprendiamoci le nostre strade, le nostre piazze. Si può parlare di qualsiasi cosa in piazza, per strada, e si può affrontare qualsiasi argomento, anche la politica. E quindi c'è, cioè, permettere ai cittadini di Ostia di tornare a parlare delle piazze, anche in quelle piazze difficili, anche in quei quartieri molto difficili, di politica, di società, di vita, beh, vale un naso rotto, secondo me. Mentre Roberto Spada finisce in carcere con l'accusa di violenze e lesioni aggravate dal metodo mafioso, il leader dei fascisti del terzo millennio, Simone Di Stefano, parla di strumentalizzazioni politiche e rivolge un appello che suona quasi come una sfida al ministro Minniti a dimostrare la possibile relazione pericolosa fra il suo movimento e il clan criminale. Io voglio chiedere pubblicamente al ministro degli interni di chiarire se c'è questo rapporto di voto di scambio fra Casa Pound e un'associazione criminale, visto che lui ha le informazioni, ai documenti della magistratura, ai documenti dell'antimafia. Ci faccia sapere subito il ministro degli interni se Casa Pound ha o meno un rapporto criminale, perché in questo caso se Casa Pound avesse un rapporto criminale di voto di scambio, di quello che vi pare, andrebbe sciolta immediatamente. È in questo clima che il litorale romano si appresta a uscire dal limbo di 2 anni di commissariamento attraverso il lavacro del voto, ma sono in tanti, dopo il forte astensionismo registrato al primo turno, a temere, insieme al prefetto Vulpiani, che a Ostia le elezioni le abbiano già vinte i Fasciani e gli Spada. Questo avviene solo nei comuni del sud gestiti dalla mafia, quando c'è l'astensionismo così. È un segnale di paura, neanche vado a votare. Il recupero delle zone degradate è la chiave di volta per vincere queste cose. Se uno recupera il degrado urbano, recupera anche il degrado sociale. La classe politica che ci succede, qualunque essa sia, deve mettersi in testa che non si possono fare compromessi con questa gente, non si possono fare accordi con nessuno. Un paese democratico non tollera questa gente. Non si possono tollerare zone franche, ci si deve riappropriare del territorio. Non si può avere il 30% di voti in una zona così. La politica locale è l'espressione della gente locale che la abita. E l'astensione non è un bel segnale, vuol dire che c'è disinteresse verso la propria casa. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.